bisogna sottolineare che si pone il problema che può uccidere il gatto. Si spera che tutti siano onesti. Detto questo, la mia risposta è che non lo so. Succede. Caccia al fotone. Interferenze scientifiche in Creative Commons. A cura di Fabio De Sicò. E benvenuti cari ascoltatori alla puntata numero 189 di Caccia al Fotone, il podcast scientifico che ogni settimana vi intrattiene con amene discussioni su scienza e dintorni. Su internet ci potete trovare al sito www.cacciafotone.it. Questa settimana ci occuperemo di biologia, fisica, ma soprattutto di bioastronomia. Quante volte, cari ascoltatori, avete sentito parlare di vita su Marte? Beh, all'interno di questa trasmissione ci occuperemo proprio di questo argomento e ce ne occuperemo col professor Giuseppe Galletta del Dipartimento di Astronomia dell'Università di Padova. Buongiorno Giuseppe. Buongiorno. Col professor Giuseppe Galletta cercheremo di analizzare un paper pubblicato qualche mese fa su Archive, intitolato Bacteria Survival in Martian Conditions, all'interno del quale si analizzano due ipotesi, la cosiddetta ipotesi della panspermia e la cosiddetta ipotesi Luca, Last Universal Common Ancestor. Però a questo punto, Giuseppe, lascio a te la parola per le 100 parole iniziali che dovranno introdurre il paper. Sì, la ricerca si inquadra in una serie di ricerche fatte nel mondo per capire se su Marte è nata la vita e se eventualmente esiste ancora qualche traccia di vita. Quindi noi prendiamo dei batteri terrestri, li mettiamo in condizioni marziane e cerchiamo di capire quanto loro sono in grado di sopravvivere e in che condizioni. Il nostro lavoro ha definito, insieme ad altri fatti nel mondo, ha definito i limiti per cui un organismo terrestre potrebbe vivere sulla superficie di Marte o subito sotto, nel sottosuolo. Perfetto Giuseppe, a questo punto ci andiamo ad ascoltare il primo pezzo musicale, poi torniamo in studio. Nella prima parte cercheremo di capire come mai Marte potrebbe ospitare la vita, o meglio ancora, poteva ospitare la vita nel passato, mentre nella seconda parte della trasmissione cercheremo di capire quali sono i risultati a cui è arrivato questo paper, questa ricerca, e soprattutto cercheremo di capire che fine ha fatto il simulatore LISA. A dopo. Al mio segnale, scatenate l'inferno. Restless nights are back again. Connect me to this foggy drone. Whoa. Ivy Hopes degli Ease Down. Questo era il primo pezzo musicale che avete ascoltato all'interno della 189esima puntata di Caccia Fotone, dentro la quale ci stiamo occupando di vita su Marte. Ce ne stiamo occupando col professor Giuseppe Galletta del Dipartimento di Astronomia dell'Università di Padova, col quale cercheremo di introdurre un paper pubblicato qualche mese fa su Archive intitolato Bacterial Survival in Martian Conditions. Prima però di cominciare con la trasmissione, lavoriamo un po' di fantasia. Ever since humans first realized there might be life elsewhere in the universe, we've dreamed of aliens on Mars. Finding even a primitive life form would be one of the most important discoveries of all time. I think the search for life on Mars is a perfect scientific question because either answer is so philosophically profound and interesting. It's a god-awful small affair. E allora Giuseppe, siamo sempre in tua compagnia per parlare di questo argomento, uno degli argomenti forse più interessanti che ci siano nella letteratura scientifica, però a questo punto cerchiamo di entrare dentro la questione. Perché Marte dovrebbe essere ospitale per la vita e soprattutto dove si trova nel sistema solare e che caratteristiche ha? Sì, Marte è un pianeta che si trova al di là della Terra, in distanza dal Sole. Noi abbiamo Mercurio, Venere, la Terra e Marte, è circa una volta e mezzo la distanza della Terra dal Sole, è un pianeta che è grande la metà della Terra e ha come massa circa un decimo della massa terrestre, quindi è un pianeta decisamente più piccolo. Però Marte, come gli altri pianeti, nasce quasi contemporaneamente alla Terra 4,6 miliardi di anni fa e, per quanto ne sappiamo, all'inizio ha un'atmosfera abbastanza densa da poter avere l'acqua allo stato liquido. È un pianeta che ha dei vulcani di cui restano le vestigia. Ci sono i vulcani più grandi del sistema solare, sui 26-27 chilometri, concentrati in una zona che è la regione di Tarsis. E in questa zona questi vulcani hanno avuto un'attività eruttiva fino a probabilmente un miliardo di anni fa. Però il pianeta era più piccolo della Terra e quindi si è raffreddato più velocemente, e mentre sulla Terra e probabilmente su Venere i vulcani sono ancora attivi, invece essi si sono spenti. E poiché, oltre al vapor d'acqua, il gas principalmente scaricato dai vulcani in atmosfera è l'anidride carbonica, che come tutti sappiamo è un gas che crea l'effetto serra, il pianeta ha iniziato progressivamente a raffreddarsi al momento in cui i vulcani non hanno più emesso anidride carbonica, l'atmosfera di Marte svaporare nello spazio, e così il pianeta è diventato ormai un posto in cui la temperatura media è 80 gradi sotto zero, in cui la pressione è così bassa che l'acqua non può stare allo stato liquido se non in un piccolissimo intervallo di temperature, che in genere su Marte sono raggiunte per pochissimo tempo, e così il pianeta in qualche modo è morto. Bisogna ricordarsi che in realtà il gas che vengono emessi anche sulla Terra, compreso l'ossigeno che viene emesso dalle piante, tendono comunque ad essere persi nello spazio e bisogna rifornirli continuamente. Nel caso dell'effetto serra, basta pensare che la Terra ha un effetto serra dovuto all'anidride carbonica e dell'atmosfera e al vapor d'acqua di circa 33 gradi. Quindi immaginatevi la temperatura di oggi, toglieteli 33 gradi, quella sarebbe la temperatura del pianeta se non ci fosse l'atmosfera e se non ci fosse l'effetto serra. Capite come nel momento in cui questo effetto sparisce, il pianeta sostanzialmente si congela. Giuseppe, quanto indietro nel tempo bisogna andare per trovare un Marte abitabile? Ma non abbiamo una datazione di Marte, perché generalmente la datazione viene fatta con le rocce basandosi sul rapporto di elementi radioattivi che ci sono all'interno delle rocce. Allora, sapendo che per esempio una sostanza radioattiva nel giro di un milione di anni si dimezza, io sulla base dell'elemento che diventa l'elemento principale, diciamo l'elemento principale si trasforma in un elemento figlio, quando ne trovo il 50%, il 25%, il 10%, posso dire che è passato un certo tempo. Allora il problema su Marte è che noi non abbiamo ancora, diversamente dalla Luna, dei campioni di Marte portati in laboratorio di cui è stato possibile fare una datazione precisa. Quindi sono sempre cose approssimate. È pensabile che il pianeta abbia avuto acqua per circa 1-2 miliardi di anni, perché le regioni più antiche di Marte, le zone che sono nella terra di Noachis, presentano delle vallate con una rete di affluenti, una rete dendritica, come si dice in gergo, di canali, simili alle vallate terrestri. Quindi è probabile che sia stata l'acqua a scavarli allora. Poi si trovano delle zone dove ci sono dei sedimenti, cioè dei minerali che si formano perché sono sciolti nell'acqua e che poi si depositano un po' come in fondo ai fondali marini o in fondo ai laghi terrestri, e quindi tutto questo ci fa pensare che l'acqua ci fosse, ma in un periodo che non è databile, probabilmente fino a 1 miliardo di anni fa, ecco, ma è una stima. Giuseppe, a questo punto, prima di lasciarci per un attimo con un piccolo pezzo musicale, ti faccio l'ultima domanda, che in realtà è anche una mia curiosità. Che fine ha fatto quel famoso meteorite chiamato ALH84001, che secondo alcuni scienziati pareva ospitare dei fossili di qualche organismo vivente? Sì, questa sigla esotica LH indica semplicemente il luogo di ritrovamento, come accade nelle meteoriti. LH sono le colline di Alan Hill in Antartide, l'84 l'hanno di scoperta e 001 è il primo che è stato scoperto nell'84, quindi LH84001 è il primo meteorite la prima meteorite scoperta in Antartide ad Alan Hill nell'84. E alcune, questa meteorite fa parte di un'intera classe di meteoriti che sembrano provenire da Marte. Queste meteoriti fanno parte proprio di un gruppo, non è una sola, ce ne sono diverse, e arrivano sulla Terra perché un grosso impatto, come un asteroide per esempio, colpisce Marte. Il materiale viene lanciato nello spazio al di là della velocità di fuga dal pianeta, quindi può sfuggire alla gravità di Marte. Una volta arrivato nello spazio viene attratto dal Sole e quindi di conseguenza si avvicina. Può capitare che questa meteorite incroci la Terra nella sua orbita e quindi, incrociando la Terra, arrivi al suolo. In questo caso questa meteorite è cascata in Antartide dopo aver viaggiato nello spazio per migliaia di anni, presentava delle caratteristiche di roccia vulcanica, quindi doveva provenire da un pianeta abbastanza grande da aver avuto dei vulcani, e presentava delle caratteristiche di rocce sedimentarie, quindi rocce che si formano in acqua o in un liquido, e nell'interno esistevano alcune indicazioni come una quantità alta di carbonio, diciamo così, organico, come delle formazioni di sostanze particolari che sono gli idrocarburi policiclici aromatici, che sono spesso legate alla biologia, e poi presentava delle strutture che sono state dette simili ai fossili di batteri terrestri. Bisogna dire che, come in tutte queste scoperte, ci sono gli entusiasti e ci sono gli scettici ad oltranza, per cui la scoperta è stata fortemente criticata, un po' come quella dei batteri all'arsenico, fatta recentemente sulla Terra, e è stata abbastanza criticata. C'è da dire che le strutture della meteorite LH84001 erano estremamente piccole, nel senso che erano poche centinaia di nanometri, cioè poche centinaia di milionesimi di millimetro, mentre i nostri fossili di batteri terrestri, quelli che datano 2 miliardi di anni circa, hanno delle dimensioni di circa 10 micron, cioè 10 millesimi di millimetro, quindi abbiamo un fattore molto più grande di 1000, sono oggetti 1000 volte più piccoli dei nostri batteri. Allora, o su Marte c'è una ragione che non conosciamo, per cui i batteri debbano essere 1000 volte più piccoli, oppure questi sono qualche oggetto inorganico che mima un fossile di batterio. Musica e poi di nuovo in studio. Ragazzi, se la realtà fosse così. Face the Day degli Ease Down. E questo è il secondo pezzo musicale che abbiamo scelto nella 189esima puntata di Caccia Fotone, all'interno della quale ci stiamo occupando di bioastronomia. Ce ne stiamo occupando in compagnia del professor Giuseppe Galletta del Dipartimento di Astronomia dell'Università di Padova, ma soprattutto primo autore di un paper pubblicato qualche mese fa su Archive intitolato Bacterial Survival in Martian Conditions. Prima di cominciare quindi all'esplorazione di questo paper in questa seconda parte della trasmissione, dobbiamo cercare di capire qualche fondamento. Che cosa si intende con la parola panspermia? La panspermia è una teoria che fu enunciata molti anni fa, essenzialmente da Prigogine, ma ci sono vari tipi di panspermia. Addirittura Crick, lo scopritore della struttura del DNA, insieme a Watson, aveva proposto una panspermia diretta in cui la vita può propagarsi nello spazio da un pianeta a un altro. Quindi, secondo la panspermia, la vita non è direttamente originaria ed esclusiva di un pianeta, ma può nascere in un luogo, anche nello spazio, e può propagarsi da un pianeta a un altro, sostanzialmente inseminandolo. Quindi, nell'ipotesi che la panspermia abbia dato origine alla vita sulla Terra, non c'è motivo per cui questo processo non abbia dato origine alla vita su Marte. Insomma, questo è un processo universale, non locale terrestre. Sì, bisogna fare attenzione ad una cosa: la vita sulla Terra ha delle caratteristiche molto molto molto particolari che non si riescono a spiegare direttamente con dei meccanismi, diciamo, fisico-chimici. Tra questi, per esempio, tutte gli aminoacidi che vengono usate dalle proteine biologiche sono solo 20. Mentre gli aminoacidi sono un numero infinito, si dice che ce ne siano più aminoacidi sulla Terra che stelle in cielo. E le molecole della vita hanno una simmetria particolare, mentre in natura possono esistere con le due simmetrie, diciamo, destrorsa e sinistrorsa. Le molecole della vita utilizzano soltanto le 5 basi azotate, utilizzano soprattutto un codice genetico. Il codice genetico è quel linguaggio che fa sì che se io metto insieme 3 basi, adenina, adenina, adenina, all'interno, nel momento in cui una cellula qualunque, dal microbo, dal virus all'elefante, sintetizza una sostanza, sintetizza sempre quella. È come se io incrocio in alto le due dita indice e medio in segno di V. Chi lo vede interpreta questo non come due dita alzate, ma lo interpreta come una lettera V, come vittoria. Questo è un linguaggio. questo linguaggio, che si chiama codice genetico, è patrimonio di tutti gli esseri viventi sulla Terra. Poiché non si riesce a capire che queste particolarità debbano essere state generate da una particolare legge o fisica e chimica, l'unica risposta che si è trovata è che è stato un caso e che tutti discendiamo da un primo essere vivente, che probabilmente era un filamento di RNA, quindi simile a un virus, che viene chiamato LUCA, cioè Last Universal Common Ancestor, ultimo antenato universale comune. Noi siamo tutti figli di LUCA, per questo abbiamo quei 20 aminoacidi, quella simmetria, questo codice genetico, ma non si può escludere che su un altro pianeta il precursore sia diverso e quindi utilizzi altri aminoacidi, un altro codice genetico, altre sostanze. In questo senso è importante scoprire vita su Marte o su un pianeta vicino, perché se si scoprisse diversa dalla nostra, si potrebbe capire che la vita è un fenomeno abbastanza universale. Se invece fosse uguale, ci sarebbe da pensarci su seriamente. E quindi, utilizzando questo linguaggio universale, questo codice genetico, che è poi un po' l'alfabeto universale col quale viene scritta la vita, avete sviluppato il simulatore LISA. Ecco, esattamente, mi vorresti spiegare come è fatto, come era fatto questo simulatore e soprattutto che cosa cercava di ricreare? Sì, noi abbiamo iniziato a pensare già intorno al 2000 sulla possibilità di fare un simulatore che permettesse di fare esperimenti biologici, ma anche di mineralogia, che in un ambiente che fosse quello marziano. Il perché un simulatore? Costa molto di meno che mandare i batteri nello spazio, magari sulla stazione orbitante o su un missile o su qualche altra astronave o navetta spaziale, e avrebbe potuto darci almeno alcune informazioni importanti. Il finanziamento ci è arrivato meno di quanto ci aspettassimo. Abbiamo iniziato nel 2004 a costruirla, ci sono voluti 2 anni insieme agli ingegneri del Centro Studi Attività Spaziali e finalmente abbiamo iniziato a fare degli esperimenti. LISA era uno dei 6 simulatori esistenti sulla Terra. Ce n'è uno alla NASA, ce n'è uno adesso costruito in Spagna, e ce n'è uno in Danimarca e così via. Il nostro simulatore quindi era un cilindro in cui venivano messi in piccole celle d'acciaio con delle finestre di quarzo, venivano messe delle spore o degli animali microscopici, veniva portato il materiale ai 7 millibar di Marte, veniva introdotta dentro un'atmosfera simile a quella marziana, quindi essenzialmente 95% d'anidride carbonica. L'atmosfera di Marte è vulcanica, 95% di anidride carbonica, il 3% di azoto, veniva portata la temperatura e fatta oscillare in 24 ore, che è il giorno marziano, tra eventualmente più 13 gradi circa sopra zero fino a meno 80 sotto zero, e veniva accesa durante 12 ore o il giorno marziano quando il sole è sopra l'orizzonte, veniva accesa un'enorme lampada ultravioletta che permetteva di riprodurre il sole su Marte, che come ho detto prima è estremamente sterilizzante, è molto più potente delle lampade abbronzanti che abbiamo, e infatti per poter stare in quella stanza la lampada doveva essere schermata e noi dovevamo avere delle mascherine apposite per proteggerci dagli UV. Quindi LISA permetteva di fare degli esperimenti in un ambiente che riproduceva, a parte la gravità, in tutto e per tutto l'ambiente marziano. Se avete notato, cari ascoltatori, abbiamo parlato al passato di LISA. Che fine ha fatto LISA e soprattutto questo progetto, dove è finito? LISA purtroppo è stata chiusa circa 2 settimane fa, perché noi abbiamo avuto una progressiva riduzione dei fondi, che non è ormai un mistero. L'Italia investe quasi nulla rispetto agli altri paesi nella ricerca scientifica, la tendenza non è migliorata negli ultimi anni, anzi tende continuamente ad essere peggiore. Gli investimenti, se vengono fatti, vengono fatti in cose che abbiano una ricaduta nell'industria privata o nelle ditte private. l'istruzione e la ricerca pubblica è sempre, sta diventando sempre più cenerentola. Comunque, al di là di, senza voler fare una discussione ampia che sarebbe anche molto lunga, l'esperienza personale che abbiamo vissuto è quella di partire con cifre intorno ai 65.000 euro necessarie per iniziare l'esperimento e trovarmi quest'anno con 2.000 euro per pagarmi tutta la mia ricerca scientifica, quindi dalle fotocopie alle telefonate, i viaggi, le missioni per portare i nostri risultati ai congressi, ma anche gli esperimenti. Basti pensare che se si guasta un'elettrovalvola di Lisa costa 500 euro, se si fulmina la lampadina ultravioletta speciale questa costa circa 600 euro, a questo di solito si aggiunge l'IVA. Allora voi capite che è inutile continuare a competere con la NASA, con la Germania, i quali stanno investendo tantissimi soldi, con una cifra così risibile. Si sperava di poter avere degli altri finanziamenti, ma senza stare a indagare sul perché o sul per come, alla fine abbiamo deciso che era molto più serio per noi e per la ricerca italiana chiudere il nostro simulatore, così ce ne sono solo 5 adesso nel mondo, non più 6, e la ditta che ci sponsorizzava, perché avevamo trovato anche uno sponsor, la produttrice, la multinazionale Air Liquide, col produttrice di idrogeno, di azoto liquido, che ci aveva anche prestato il serbatoio, è venuta con una gru l'altra mattina, si sono presi il serbatoio, per cui adesso Lisa non può più raggiungere le condizioni marziane, ma è un cilindro a temperatura ambiente. Tutto qui, sic transit gloria mundi, direi. E poiché stiamo parlando al passato, quali forme di vita, quali tipi di organismi avete notato che riuscivano a sopravvivere all'interno di Lisa e quindi in prospettiva sulla superficie marziana? Ecco, abbiamo visto che sulla Terra ci sono dei batteri che sono in grado di resistere a situazioni estreme, sono i cosiddetti batteri estremofili. Alcuni resistono a dosi di particelle 200 volte più grandi di quelle che ucciderebbero un essere umano, tipo il Deinococcus radiodurans. Noi abbiamo usato batteri più casalinghi e naturalmente non pericolosi e abbiamo trovato che l'unica fonte di mortalità per le spore batteriche, quindi quando hanno eliminato la gran parte dell'acqua dal loro organismo e si sono rinchiuse in una specie di corazza che è la spora, queste spore possono resistere al vuoto, possono resistere a temperature bassissime o anche calde, diciamo ambientali, possono resistere ad avere nessuna quantità di ossigeno, quindi anidride carbonica, ma l'unica fonte che le uccide è la radiazione ultravioletta. Poi si tratta di, a seconda della specie, ci sono dei batteri che muoiono subito, ci sono batteri che resistono 8 ore, ci sono batteri che resistono di più. Un gruppo di Mantova ha portato dei piccolissimi animaletti che sono i tardigradi, che vivono nel muschio, sono grandi circa mezzo millimetro. Questi animaletti a un certo punto vanno come il letargo, cioè sospendono quando non c'è acqua in quelle loro, la loro attività, si richiudono in bozzolo, sembrano un po' tipo un riccio, però microscopico, e sono in grado di resistere anche più di 8 ore in clima marziano. Quando vengono tirati fuori basta dargli una goccia d'acqua e si risvegliano. Rapidamente musica e rapidamente di nuovo in studio. Grande Giove. Be prepared. If you want to be sure of even dependable, helpful media... Ultima rapida coda di Cacciafotone, siamo sempre in compagnia col professor Giuseppe Galletta del Dipartimento di Astronomia dell'Università di Padova e dopo aver parlato per un'intera puntata di bioastronomia arriva la domanda zainetto. E allora Giuseppe, quale delle tante cose metteresti nel tuo zainetto da ricercatore per portarti all'interno delle prossime ricerche, cioè del tuo prossimo futuro da ricercatore? Quale delle tante cose salveresti? È una domanda abbastanza difficile, anche perché io credo che tutto sommato anche le sconfitte facciano parte del nostro bagaglio e quindi ci aiutino. Io credo che la parte positiva di questo esperimento è stato il desiderio iniziale di scoprire delle cose nuove, di buttarmi in un campo che non era il mio, perché ho lavorato per tanti anni sulla struttura delle galassie. E quindi quello che porto di più è stato l'entusiasmo con cui questo gruppo di giovani, tra virgolette, perché i fondi che hanno permesso l'ISA erano destinati a gruppi under 50, cioè sotto i 50 anni, io ne avevo 49, quindi sono entrato per un pelo, e quindi diciamo l'entusiasmo iniziale delle discussioni con i biologi, con gli ingegneri spaziali, con mondi così diversi, per dire come doveva essere questo simulatorio. Ogni volta veniva fuori un'idea, si facevano i conti in tasca, si dice: no, non abbiamo i soldi per farla così, la dobbiamo fare colà. Quindi questo spirito d'impresa, oserei dire, che mi è rimasto e che diciamo non mi fa calare la testa davanti a niente adesso. E così allora si conclude la 189esima puntata di Cacciafotone. Come avrete capito, abbiamo trattato questo argomento anche per parlare delle situazioni, delle condizioni della ricerca italiana. Un progetto di questo tipo, uno dei 6 simulatori marziani di vita marziana, è stato chiuso giusto 2 settimane fa, quindi mi sembrava anche il caso di parlarne, visto tutto questo silenzio soprattutto sulla ricerca italiana e soprattutto sui finanziamenti. A questo punto l'appuntamento è alla settimana prossima e l'augurio è il classico di buona scienza a tutti. Giuseppe, in bocca al lupo e ciao e grazie ancora. Ciao, grazie. E con chi stai parlando? Dici a me?